Dove è situato il barilotto? A che altezza l'hai messo il barilotto? Guarda, è fuori dal terrazzino, altezza del viso, dai, diciamo. Fuori dal terrazzino, comunque. Vabbè, ma praticamente dove entra il cavo che entra in casa? Lì è. No, è dalla parete esterna, quindi è un po' esposto alla pioggia. Infatti io quando lo sigillerò prima lo asciugo bene, se necessità gli metto l'antiossidante, tutto, se il barilotto deve essere perfettamente pulito, anche soprattutto nel centrale. C'era un metodo bello anche suggerito da un radioamatore per unire due cavi con un lamierino di rame, cioè una cosa fatta ad arte, è come non avere giunto, però va saputo fare. E poi in una posizione un po' brutta, capito? Vabbè, dai, non è un problema. Cappa, lo so che è fuori il barilotto, ma dico, dove entra il tuo cavo? Praticamente quanti metri ne hanno tagliato? Ah, intendevi quello? Allora vediamo. Che sia 3 metri, no, più di 3 metri, fai che sia 4 metri là, ogni lato del terrazzino, poi scendeva giù dal bordo alto del terrazzino in alto, aspetta, quindi 4, 5, 6, poi in casa ne ho 7, 8, 9, 10, 11, oh, sarà 10 metri dentro casa, massimo 15, perché ne avevo un po' in eccesso. Quello che c'è in eccesso lo tagli e lo metti tutto all'apparato, va. Però cazzo, ti hanno rotto veramente le balle, cazzo, le mani secche ce le dovevano tenere. Il modo di fare degli operai, dei muratori, è sempre quello il modo di fare. Loro basta che debbano lavorare bello, tutto libero, tagliano quello che c'è, tolgono quello che c'è. Va bene. Io mi sarei fatto risarcire se io stato per te, ma avrei fatto comprare 50 metri di RG 213, mi l'avrei fatto pagare, oppure gliel'avrei scontati dal saldo che gli dovete dare, gli avrei dato i soldi in meno di 50 metri di cavo, e se no vi denuncio pure, perché mi avete fatto un danno enorme, l'avevo detto. Beh, enorme no, poi capirai per quanto ne vale la pena della 27, non è che potrei anche togliere tutto da oggi al domani. Puoi denunciare, no, perché poi stai 20 anni in casa per cosa? Per 125 euro di cavo. Invece volevo fare come ti avevo detto io e come hai ribadito tu, gli tolgo la saldo, anche se lui dice quello non lo può fare, ecco, vediamo se non posso fare, nemmeno voi potete entrare a tagliare a caso quello che vi pare, per lavorare comodi, capito? Ma non è solo il valore del cavo, poi a piazzarlo nuovo il cavo, la giornata chi te la paga a te? E sono altre 120 euro. Non è così. Sì, ma infatti io posso dire il cavo va, diciamo, sostituito, calato, vulcanizzato su. Allora, io chiamo questi antennisti che ci sono di là in Viale Trento e se ne occupano loro, e vi pagate anche l'installazione del cavo, la calata fatta dall'antennista. fatto le salature, tutto lui fa, però ve lo pagate voi, e allora altro che 125 euro gli esce, con la manodopera 300 euro gli esce. Se li basta, bisogna vedere quanto chiedono quelli là, mi sarei messo d'accordo, logicamente il lavoro non gliel'avrei fatto fare a loro, no? L'avresti piattato tu il capo, però l'aveva fatto pagare, con usare e con bevare che l'aveva fatto pagare. Va bene, io faccio bianco, Natali. Non fa più questo riso, vabbè, io lo lascio andare 20 minuti, perché sai, 15, come dice il coso, sono pochi, quindi almeno 20, deve essere morbido. Quello condisco e ce lo mangiamo. Bien. E quindi stacco. Ci sentiamo quando capita, Natali. Ok, grazie per le quattro chiacchiere e di avermi risposto. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ci aggiorniamo. Buon pranzo quando lo farai. Comunque io lo lascio a 15 minuti, non di più. Ed esce buono. Piuttosto, per quello dice Vittorio lì, come facciamo? E poi quali canali attivi ci sono di quelli amatoriali? Perché certi canali non sento più niente, sento al limite rumori tipo digitali. Vabbè, io potrei mettere quelli che ho io in memoria, che sono gli stessi che hai tu. E poi lui se li esclude, se vede che non sono attivi, basta fare il lockout, quello definitivo, e li esclude dalla scansione, se ogni volta accende e glieli rimette in scansione, capito? Ok, quelli che è tuyo, i canali, li metti quelli e via. Appena siamo disposti te lo facciamo sapere e te lo portiamo lì, il ricevitore, o vieni tu a pigliartelo, che ne so. Sì, guarda, tanto pochi minuti, dai 3 ai 5 minuti è già fatto, è una cosa velocissima da fare, anzi gli avevo spiegato a Franco, però non è riuscito a focalizzare bene. Cioè, tu metti la frequenza, no? Con la modalità search, blocchi sulla frequenza che ti interessa, no? Dalla scansione, e premi, com'era? Prog, private prog, memorizzato, basta, fatto. Poi scegli l'altra frequenza e fai prog, private prog, basta. È di una elementare, dai, come modalità di programmazione. Ehi, vabbè, io non c'ho più pazienza, se non gliel'avrei programmato io. Ho visto che non sono riuscito alla prima e ho mollato tutto. Vabbè, dai, ci risentiamo e così ci mettiamo d'accordo, Marco. Alle prossime. Ti ringrazio anticipatamente. Ehi, Ami, mi sta suonando il timer della cucina, non so se lo senti. Eccolo qua. Sembra la mia sveglia, ci sentiamo alle prossime, dai, che anch'io adesso mi faccio un pisolino. Dappa, ciao Natali, ciao, buonasera. Chi è? Adelante. Adelante. E allora che mi dice? Sono un po' stanco. Camminando un bel. Beh, Meda ne hai preso o solo quella? No, solo quella oggi. C'è un po' di marettino, già l'hai visto. Si stava, stamattina sono sceso io lì e il mare era tranquillo, però dopo stasera si stava incazzando. Già calmo, però più formo è meglio. Per quella pesca lì. Vabbè, stanotte c'è un mezzo, è frutto di mare. Abbastanza appena che sei quasi incomprensibile. Ecco. E la frutti di mare ce la sto mettendo, capito? Così passa i frutti di mare con l'aggiunta di seppietta. Cara pagava. Ma io pensavo notte che erano le 11:30 mi sa. La mattina presto uno bisogna che vada. Oppure al tramonto. E presto sono sceso. Se ti sto dicendo ogni 10 secondi mi dovevo scaldare le mani, cazzo. Ma se usi VD ti pare che va più rispilli di mani. Quando scendi così presto, però è così. E poi il fatto cammini, comincia a camminare parecchio purtroppo quando si fa questo tipo di pesca. Ma non ti credere, no? Se vai dalla spiaggia sì, ma da sopra le rocce io hai già fatto una strage una notte. Ehi, se trovi il punto giusto sì, da sopra le rocce, ma dalla spiaggia. Dalla spiaggia se rimani sacca pezzo in un punto, capito? No, non fai nulla, sei tu che devi andare a cercarlo. Riga, lo so. Infatti quella lì l'ho presa dove ci sono le case là, che ti puoi immaginare. Sono partito dal Lido e la giubilata davvero dove ci sono le case. E io ho capito. E poi niente, sono arrivato fino alla torretta. Fino alla torretta, tornato indietro, niente. Ma è così. Io ne ho due di quelle cannette lì per fare quella pesca lì. Queste ci vogliono, quelle da non confondere con quelle da spinning, che è un'altra tipologia. Che molti usano quella da spinning, ma è questione di sensibilità di manico, capito? Le mie sono da aging proprio, quelle col manico corto, quelle da spinning hanno il manico più lungo e ti viene male a giocare. La spinning deve toccare sotto il braccio, all'altezza del gomito, questa da aging no. Cappa Rogero. È che sta facendo freddo. Cioè io sono messo male per l'influenza, sono preso alla gola e paghissimo non ho bisogno di andare a dubbio. Ti da fa bene, ma beh è vero, io avevo doppio pantalone, immaginai già di. Doppie calze addirittura, un pochino comunque si sentiva, poi vabbè, ha migliorato la giornata, poi è uscito il sole, eccetera, eccetera. Ma stasera io dico che sarà incavolato il mare. Non so, io guardo, faccio il mio meteo, messo tutta la settimana calmo, tutta la settimana proprio calmo, come era stamattina, vai. Sì, poi la sera è normale, ma poi verso le 5 così del mattino si torna ad abbassare, le 4, le 5. Ma è troppo fredda, che sura. Lo so, però è quell'ora bisogna andare. Quell'ora, perché ci sono quei momenti che la prendi a quell'ora e poi non ne prendi più tutto il giorno, capito? Dipende come li sale. E infatti poi devi cambiare esca sempre, non è che usi sempre la solita la puoi usare un pochino dopo, se vedi che ne hai preso già una, ma meglio sempre poi cambiare in base alla giornata, come si evolve la giornata, se nuvola, se c'è sole, i colori sono importanti. Già mi sono documentato, le so io queste cose, sto di tosanare, già ce le ho. Io se vado a rilassarmi e la mattina sono sceso due volte, sono sceso dopo pranzo stamattina, dopo pranzo sono sceso a farmi un giro con mia moglie e col cane, dice, dove eri tu, e stamattina sono sceso con un amico a farmi un giro. Si è sceso tardi, presto non era, ma solo a farmi un giro, non sono andato proprio per pescare, no? Qualcosa, per amor di Dio! Una cosa... Una volta in vita tua, comporti per te stesso! ancora al freddo io, che mi gioco appena scendi dall'influenza e non mi gioco ancora ai cibi. Sei sceso dopo mezzogiorno sicuramente, perché io non lo sapevo poi. Ehi, dopo la una sono sceso con mia moglie. Prima sono sceso con un amico, però a te non ti ho visto. Ma sceso tenersi dalla macchina almeno. Eia! Sì, me lo so io. Me lo so io, da voi c'erano dei due tipi con un cane che giocano lì. No, tutta la spesa non vuole nessun altro. Me lo so io. Meno che non era... Se sei sceso... Meno che non era il momento che ero lì, nell'insanatura dove c'è la torretta. Da lì, ma che non vai proprio oltre le case, se no non mi vedevi. E sarei stato lì quando sono sceso io con quell'amico, capito? E mandavi un messaggio, come chiamavi? E non ho voluto disturbare, mi capito. Kappa. Qui ho pensato che te ne eri già andato a quell'ora. No, e aveva sempre verso 11:30. Dipende poi come hai capito, come si vede, perché tra andare e tornare ci vuole quel tempo lì. Capito? Ci vuole quel tempo lì. Se poi mi fermo perché magari sta mangiando in quel punto e mi fermo quei 10 minuti in più, però solitamente ci vuole quel tempo a fare tutto il tragitto, andare e tornare. Fare le tappe e poi capito. Lì scende sempre Bruno. Scende Bruno Ragano, te lo ricordi? No, c'era uno passeggiando, che vedi cercando nella spiaggia, boh, non so cosa zecca, boh. Sì, a me lo dice. Bruno Ragano che c'è il baracchino, che vecchio CB, e lui scende ogni giorno lì, che va a trovare un amico suo che c'ha il camper lì. Sì, ci sono dei camper parcheggiati, infatti uno invece la Iana ci mangiano un camper, ha fatto uscire la iatta, cazzo, ma ci sono dei frazzi di un ferro lì che avranno qualche tipo di riscaldamento, penso, se no non è da stare lì, no? Ti muore assiderato. Sì, hanno questo, come questo che ho messo io a casa, il verbasto, che c'è il verbasto 8 kg, parte qui. Hanno quello lì e lo tengono, stanno acceso al minimo. E scaldano parecchio, ma cazzo. Qui ci sono sempre i ghibi, tutto è stato inverno sono i ghibi. Pensa che un tipo, una buccia cosa ha fatto? Ma ti parlo di novembre forse. È uscito nudo da un camper, nudo, vero, solo mi spiace, è uscito nudo, si è cotto in neva, si è tutto lavato e dopo si è tornato da un camper. Cazzo, ci mi ha già baidato, boh boh, nudo, nudo. Cazzo, chi ci ha reso proteggere un freddo io? Io ero molto. Cazzo, mi ha novembre, era freddo, la gente lì sono messo in calo del capo. La gente passa a scappare, quella ne ubbigia subito. Infatti a novembre bui, che non lo so bui. Se si vuole lavare, l'acqua calda non è che, capito, è un problema le bagaglia. Ne sarà uscito bello rigido. Andà giù vicio, cazzo. Ma se stavo già andando a Seppi io. Cazzo, gente, tranquillo, ma deve essere straniero, tu vai, capelli alla rasta, se ci dà un gambe, nudo nudo, aiuto, adesso vado al bagno. E allora, vamos, cazzo, a novembre, lo zucco mi è giunto, che... ma stanno lì tutto l'anno parcheggiati, capito, vivono così, vivono. Boh. Che è bello, però cazzo, sempre così, boh, non ti basta più. Non ti basta più, no. In camper noi già andavamo, io e Franco, a pescare, ci portavamo il camper, invece di rientrare non rientravamo, capito? E ci andiamo due, tre di... Ma è bello d'estate, vedi, te ne vai in giro, dormi, e c'hai tutte le comodità, qui 10 giorni, 15 anche. Ma d'inverno lascia parcheggiare dei ghibi così, No, d'inverno no. Variamo tutti le comunità, ogni tanto ti facciamo il caffè, cazzo, ti puriamo il paro pranzo, ti facciamo il pranzo, per adulto, frigorifero, cucina, tutto quanto dentro. Io già so che ci sono tutte le comodità, però ripeto, d'inverno. D'inverno magari mi se ci sono quelle belle giornate di sole che scalda, però no, giornate così. Parti il venerdì e rientra domenica, ma almeno dove vai a visitare la giornata è calda e te la godi anche. Un attimo, mi ero spostato la viaia. Eh sì, è così. E quando non si è sentito? Sì che si è sentito. Verso le due mi sa. Allora stava facendo colazione. No, stava cucinando il pranzo. Non è da lui. Già lo so, oggi era in anticipo forse. Avevano cambiato abitudine. Eccoli! E bollisi. Sentite là la mia 50, oh Luca. Ha detto domani San Valentino, io tu e cosa mi regali? Un istoccato o una fucilata, cosa preferisci? Addirittura. E Mario che è andato? Cioccolatini ci vogliono. Ah, cosa cioccolatini? Istoccata, Michele. Arrivi, Io. E se non la gente manda laterale che c'era? Io sono acceso adesso. Ma stamattina? Verso il pranzo, dove quando stavo parlando con Marco, appena prima che entrasse Marco, stavo ascoltando. Mario, vieni, voglimi. Propagazione c'era. La giornata. E tu cosa stai smanettando lì? Non so come ne andava, niente di niente. Cazzo, mi hai fatto vedere il barbecue come ce l'avevo io in campagna, che uguale. E quello che l'avevo fatto da uno scaldabagno che mi si era buttato, invece di buttarcelo, aggiungi ad indulla, gli butto le giarniere, non è mica la maneccia, le ruote, che vedi. No, la mia le ruote non ce l'aveva, ce l'aveva solo le gambe e boh, ma era preciso mia, chissà, preciso. Cazzo, qualsiasi cosa mi cucinavo arrosto. Ma no, poi comodo questo perché gli ho fatto anche un secondo piede quando lo apro al libro, in modo tale se per esempio fai il zimino, capito, o c'è molta carne da fare, faccio due cose e ci sta più molta carne, capito? La griglia già è grande quella che ho. No, le ruote le ho messe perché io poi l'ho sposto là da quel muro, capito? Non lo lascio in mezzo al terrazzo. Ho capito. No, io ce l'avevo fisso lì fuori in veranda. Cazzo. Avevi un coccio di bollo. Arrosto me ne facevo. Cazzo, era buona la garra, consiglia. Qualsiasi cosa. Avevo qualsiasi cosa arrosto, è buonissima. Ma io poi c'ho anche, mi sono costruito il girarrosto. Ci sta un mezzo maialetto, capito? Bello agnello, giovato, col girarrosto, perché l'ho fatto che vada a cavallo al barbecue, capito? Così che la metto la legna da una parte e lo posso girare all'asta, e però c'è una marea di legna, purtroppo, quando fai queste cose. Non è che posso usare schizzone che ho già arrosto. Ebbene che no. E già ne abbiamo fatto di quelle cose in campagna, io. E no che non posso fare nulla. Io avrei voluto il forno, ma lui non mi ha detto. Infatti mi sono procurato già una l'anno scorso una tamburlana nuova. E gli ho aperto il tappo, e l'ho messo in orizzontale, gli ho fatto il cavalletto, adesso però gli devo fare tutta la coibentazione, gli devo mettere dentro tutti i mattoni refrattari e quanto vorrò, capito? So che anche lì vuole legna, sia che fai pizza, sia che fai chissà che fai, non sempre legna. E se non c'è sufficiente gente, cosa va a tornare a fare? Va a fare due bizzi, va. E infatti, in campagna di la zuzzera di me per addendo, l'abbiamo fatto lo vorro, ma proprio vorra vero, in preda l'abbiamo fatto, in coso, con i mattoni refrattati, dentro. E di tutto cucinava, i bizzi, i vaini, carri, tutto questo che potevamo così lo cuciniamo in chivia, pochi c'erano la cosa, mamma mia. Sì, perché lo sarri è un così biarombiano, allora, appunto ci puoi fare pizza, ci puoi fare tante cose, pane. Io ho fatto il panettiere, ho fatto il pizzaiolo, così che fare queste cose, però ripeto, ci vuole un bel di legna, avevo un bel di tempo, canno fumare, alle notte fumeggia tutto dal razzo. No, lì era l'aperto proprio, abbiamo fatto la canna fumare, a tutto. Cazzo, era un forro impareggiabile qua. E noi abbiamo la campagna a Sennori, che era di mia nonna, poi ad un diviso, cioè il forno l'avevamo fatto dentro casa nonno. E appunto perché le donne facevano il pane e gli uomini lavoravano a terra. E da dentro gas, sicché pulisi più via, non c'era problemi, perché il forno c'avevo in cucina. Cioè, sbellarello. Sì, sì, è una comodità. Infatti nei paesi in chi vive me ne pagano i rubani, è vero. Cavolo. E tanto che è poco buono i subani che fanno i cucini, il susso, i cose, lì lo fanno buono. Sì, facevano passature anche, sai, tutti i di recamati, infatti con la binzetta, tutti i cose così, le focacce, quelle col buco. E i tondi perché doveva durare per tutta la settimana poi. A me il dondo è mi piace, visto mi è sempre piaciuto. Il dondo è. E il pane più buono che c'è. Quella fragranza che ha, allora. Yeah. E allora, chi si banini fatti con la farina 00, chi si tu ricudare un muro ne va in tonaco. È tutta semola, prima si usava solo semola per fare questi pani qua. E poi si aggucia, però sono tutto miscende, so, pure chi sa dei gosi, dei grilli. Anzi se li avete già prima, chi brinca? Chi sa brinca sì. A tu vuoi immaginare che. Chi sa rimane marroncino rimane. E vabbè. Io magari lo assaggerei un grillo fatto così fritto, come ti l'hanno fatto vedere in televisione, che vedi la gusto va. Mamma mia. E che non siamo abituati noi, capito? Magari è derivato schifo che cos'è mangiamo noi. Magari è derivato schifo la gioga, per esempio. Come per esempio quando nel continente guai a lo zemino, ucci, per carità, guai, non te ne mangiani, Ma oggi fatto mangiare la bigura buddito, prima era un po' così, no, sai l'odore che fa durante la bollitura, ma a voi, cazzo, la di da voi se ne hanno mangiato da Eddie Mattessi, che ne è rimasta e la domenica io ci sono andato, ho detto scaldate va nel pentolone così stesso, e tra cui si è mangiata, ha giocato i gigioni, bulu. E io lo grido, il vino non ne mangia nessuno, solo noi lo mangiamo, ma neanche in Sardegna, non sono tutti che lo mangiano, solo noi di questa parte di Sassari lo mangiamo, è vero, sì. non è che si deve fare una usanza, mangiarlo ogni tanto non fa male. E infatti mangi una gana, mamma mia. Una campagna ci si è bevuta, campagna. Una bancata, preparato tutto, gente come si deve. Ehi, quando ero in campagna l'ho fatto con Gianni, mi domandava Gianni, doppio rumo a BD, la magna da Cina e Mubatti, dice mio. Cosa non puoi fare in campagna, davvero, cosa non puoi fare? La libertà c'hai, è tutto. Cazzo, non ho problema a farlo in condominio, ti denuncia Gianni subito, che la fumigheggi, ti dici. Io qua già l'ho fatto, ma ripeto, quando lo fai che ci sono almeno 10 persone, non lo vai a farti un dubbio. Però qua io sono allatti così che non mi disinuda nessuno. Infatti devi avere un terrazzo che non disturbi a nessuno per poterlo fare, sennò cazzo. Già quando arrossi qui in campagna sopra mi la megugnata, cazzo, mi dice che imbruttavo la roba. Sì, è un grido, ma è fumo, infatti. Io me la fotti, io quasi fumo voi. E se no cazzo non ero veloce attendendo il loro fuoco. Ehi, poi se c'è legna buona, anche ogni abbranto un tronchetto di legna come ti si devi, e dà quel gusto particolare. Ah, mi piace il tronchetto, ah? Eia. E a te ti piace quello della crucca? Quello è il troncone, non il tronchetto. Buonasera a tutti. Sono entrato a salutare che tanto devo uscire di nuovo. Ha fatto commissioni, rientrato, bevuto e adesso devo riuscire. Buona giornata internazionale della radio a tutti. Ciao. Grazie, grazie. Ma a te ti vieni a Pabba. A chi dai cazzo la benedizione ti avvii? In italiano. Adesso che dai la benedizione te ne vai, che ti devono fare Papa. Ecco la traduzione. Meglio la benedizione che una maledizione. Ah, quello senza ombra di dubbio. Mica c'è Luca qui perché ti voleva. Cazzo, tu te ne vai, lui voleva fare l'amore con te, invece tu te ne stai andando. Capita fede, c'è l'alzato flescia e duburu. Bella quella vignetta, dice girati che non ti faccio niente. Praticamente l'ha inchiappettato. È una schifo, stavi diventando con questo Sanremo. Allora io mi immagino, vabbè, nonno è già molto retro, ma se avesse visto questo Sanremo avrebbe detto questa è la fine del mondo, l'apocalisse. Apocalisse miau. A chi sa che a Ferragni vi sai? Sì, l'ho vista. È più bella vestita che come l'hanno fatta vedere. Questo è il disegno del mio corpo, non sono nuda. Guarda, con la fame che ho mi andava bene anche la veniera. Gliel'avrei dato io il bacio alla veniera. Cazzo, ti buoni mano la veniera, ti arruineggia. Mica ti piace i miei giovani, chissami. Sì, sì, adesso non disegno nulla, mi sto guardando anche le babbione, ad Ursula, Venier, eccetera. E pari macco alla vita, amico. Marco, ti immagineggi, Luca? Io poi ci piace Marmarella, ti piace. Ma poi te la dà col cuore, me. Sì, comunque un Sanremo strano, a parte le canzoni, cioè, io ero rimasto a Orietta Berti. Troppi tatuaggi, troppi baci in bocca, troppa mezza nudità, tutto trash, tutto episodi trash, capito? Non è più il Sanremo di una volta. Ridatemi Pippo Baudo. Sì, guarda, preferivo Pippo Baudo, Corrado, qui presentato di una volta, e come era in programma di una volta, sì, un po' pallosi però. Che poi io non ho guardato, ho visto solo qualche spezzone su YouTube. Ma non lo so, No, sono, no, non mi ci va, mi, nemmeno le canzoni, francamente. Ma vedi, Marco, più soldi fanno, più vizzati sono, hai visto? A maschi, ma i soldi fanno questo e altro. Allora gli si dà tatuaggi, gli si dà tatuaggi in faccia, ma cazzo, Marco, io manco fatti vedere la vivo. Al Festival di Sanremo si va in smoking e le donne in abito a sera e devono presentare canzoni melodiche, perché quella italiana è musica melodica. Tutte fluci e tutte puttane. Giusto, giusto. Per carità. Ciao a tutti. Troppo strano, non lo so, poi queste cose dei baci, sempre tra voi, queste cose gay, c'è una lobby gay che praticamente fomenta queste, ci dobbiamo abituare, in un prossimo futuro diventeremo tutti come Malgioglio, come Platinette, soprattutto Natalino, mi. La vecchiaia! Tanto mi, se non sei culattone adesso non fai niente, niente, non procedi nella carriera, nulla fai. E beh, quello già lo so. Tutti gay sono. Va bene, dopo questa sconcezza del mio intervento io devo davvero uscire, devo fare la spesa. Una buona serata a tutti, dai. Ciao Luca, Giulio, Natalino e tutti gli ascoltoni, ciao. Ciao Marco, ciao. Ciao, ciao Marco. Luca, non ti scandalizzare. Luca si è scandalizzato, minimo. Per carità. Tu guardami, oh Natali, tutte queste dalla televisione, le donne, non ce n'è una che ce ne salva, tutti quanti sono puttane, tutte, perché se no non puoi fare carriera in televisione. Poi parliamo di uomini, donne sono praticamente, perché anche quelle sono donne, perché se sono frusci sono donne, non possono essere uomini. Oh, tutti gli tizi da tueggiano in faccia, io non li avrei neanche fatti entrare, assolutamente. Ma ti pare che uno si possa fare tatuaggi in faccia? Oltre che in tutto il corpo, Dio ce ne scampi e liberi. Dio ce ne scampi e t'arredi. Ma io li avrei arrestati tutti, perché quello, non è possibile che ci possa presentare uno un festival così, in quella maniera. Una vergogna, per esempio, mi parecchi delinquenti che sono scendi oggi, perché la maggior parte di quei ragazzini sono tutti delinquenti, già lo vediamo cosa stanno combinando in giro per il mondo, tutti quanti titolati sono, tutti quanti a far rendersi, tutti quanti facendo dal male alla gente, non è possibile. Criticone, Giulio Dollaro, cambio! Ecco, Criticone, è verità questa, Buonasera a tutti, scherzavo Giulio. Buonasera a tutti, dai, sono entrato adesso. Saluto tutti cordialmente. Buonasera anche da parte mia. Ciao. Guarda che ho buscato due attacchi per quel portatile. Se ti trovo, te li faccio vedere se vanno bene. Vediamo, allora ci vediamo già, li guardiamo. Io sono diretto in zona di pesca, vediamo più dove riesco a farvi compagnia. 5 minuti bianco per me, che sto prendendo una cosa in garage e sto partendo. Direzione quella di mare. Sì, ma mare dove? Mare di Furi, cambio. Passettino? Mare di Furi è grande, si dice il peccato, non il peccatore. Sì, vabbè, tanto è un gommone, non è... Anche io ne ho gommone, non sto andando in gommone. Dai, 2 minuti e rientro. Salutoni Giulio, Natalino e Gianni. Ciao Saverio, ciao. Ciao Gianni, ben entrato anche a te. Avanti Giulio. Ok, Gianni l'ho già salutato. Ciao Gianni, ciao Saverio. E ciao Natalino, QRT per me, ci sentiamo. Le prendi pure già, ciao. Ciao, andando te ne stai? Sì, sto andando. Sto guardando la televisione, dunque voglio seguire questo programma, vediamo un po' cosa dice. Una trasussa, la destra ha dato una trasussa alla sinistra in queste elezioni che hanno fatto regionali, barca del dai, una percentuale di differenza, 20% più o meno di differenza c'è, cioè, in percentuale, bella giusata. Vedremo cosa combina. Vabbè, cosa combinano è un altro discorso, però la sinistra proprio è diventata una vergogna, uno schifo. sviluppo della politica non solamente italiana, ma addirittura europea. Basta vedere cosa hanno fatto in Europa, che se ne hanno rubato i soldi, boh, è tutto. Vabbè, comunque lasciamo la politica ai ladri. Ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao Giulio, grazie per essere entrato e aver fatto le quattro chiacchiere. Ci sentiamo quando coincide. Avanti Gianni. Dai, ciao Giulio, ci sentiamo, dai. Buona con X se lo fai, se no ci sentiamo un altro momento. Avanti Natalia. Ma c'era Luca, stavamo discorrendo poco fa e deve essere che si è scandalizzato per Sanremo perché è entrato anche Marco Condo e ne abbiamo detto tutti i colori. No, io ho sentito solo quello dei tatuaggi, in faccia non piacciono manco a me, però due o tre tatuaggi mi piace averli, dai. Io ne ho due, ne devo fare un terzo, mi dovrò decidere fare un terzo, sicuramente mettere i nomi di miei figli. Ma questi hanno il corpo tutto tatuato già, fanno schifo, guarda. Uno attacca dall'altro, non si ne comprende nulla di cosa vanno tatuato. No, così sembrano spurchi, a me non mi piacciono tanti tatuaggi così. Luca, avanti, ci sei. Non c'è, non risponde. No, io stavo facendo un contest e sono arrivato la star della serata. Ma lo posso immaginare. Oh, stavamo parlando di pesca con Luca, perché stamattina lui già se n'è andato a Seppie. Io sono sceso due volte stamattina a mare. Prima sono andato a farmi un giro con un amico e poi sono sceso dopo pranzo con mia moglie a respirare aria di mare. A chi guarda non ne budivo più di questa gola, mamma mia. Hanno morsicato pure il mio cagnetto. E chi l'ha morsicato? Lugani di un coglione, ma sorvoliamo, cavolo. È andato a giocare il mio cane e questo se l'è avventato. Meno male che non gli ha fatto male, sennò cazzo la più gribadura mio. Adesso mi porto il coltello nel borsello. Così almeno, cazzo, se fanno qualcosa al mio cane, cazzo, li sgozzo. Che cane era questo qua, Natalino? Un cane manno, biroso, era. Un cane di mitraglia era, mi. Attiramente a mitraglia. Ma mitraglia, quello... Mitraglia del Sacro Cuore, quello che praticate fa vigile del fuoco. No, in Via Nurra abitava. Che si è sposato con una delle mie ex. Io mi ricordo a Caffittia. No, Antonio Mitraglia, abitava in Via Nurra, abitava, adesso abita lì, a Platamona. Io ne conoscevo uno che praticamente lo chiamavano Mitraglia perché sparava una balla dopo l'altra. L'unibote di Ghissu è. Ho capito forse, ma come lo tiene il cane? Con una corda. Ehi, ed era libero il cane suo, il mio era al guinzaglio, il suo era libero. Cazzo, se l'aveva fatto male, che stavolta ne abbiamo invisato a male, pure lui dove era passato, va. E ti ha chiesto scusa al me. È uno stronzo, neanche scusa non mi ha chiesto. Cazzo, c'aveva una corda lui in mano. Cazzo, glielo potevo mettere il guinzaglio, no, la daga durimba era un gatto. E ho capito chi è, Natalia, ho capito, se aveva la corda io ho capito chi è. Ma guarda, c'era da spararlo a lui e al cane. Sta sempre vicino alla torretta, lì al bordo della torretta. E lì sta, e allora? Il tunguglione. C'era male in mano quando c'ero io giocando in spiaggia con il padrone che rilanciava le cose, i rami, le pietre. Solo chi su era sta mangiando. No, chi c'era Marro io. Qui c'è la torretta, va nella cabina la torretta, vale, così è andata lì. Mo. Io conosci tu meglio, i tanti in coro. Lui ha detto mica, mi pare, lo io, che ci lavoravamo in comune, e la lotta a Sassari, me ne lascia tutta la vita. Era un ebrudi di chisso, già compreso, vabbè. Ciao Luca, chiudo, dai, che manca l'ascolto, perché sto guardando la televisione. Ciao Luca, riprendi. Luca, banda la Recci. Deve essere, si sposta. Comunque non gli ha fatto nulla. Meno male di no. Già mi è costato 1500 euro la travuccia. Già lo so. E oltre tutte le pene, le cose fanno stare fermo, il tucante, non è solo un gusto. Lo so solo io cosa ho passato già. Ma già me lo immagino, perché quando a Titi l'avevo operato, l'avevo fatto, l'avevo sterilizzato, dovevo stare tutta la notte vicino a lui perché se no si leccava. Sono stato tutta la notte a fianco a lui per non leccarsi. E chi c'è gli animali già lo sa, le cose che bisogna sopportare in questi casi, specialmente se si muoveva con la gamba così. Infatti. Lui, poverino. Sì, non ti devi fidare, vatta lì a avvicinarlo, no, ci sono cani, sono bastardi, prima scodinzolano, come la avvicini saltano addosso. Io ho visto un pitbull facendo così, giocavano da piccoli questi due cani e un giorno si sono avvicinati, anche da grandi li avvicinavano le cose. Questo si è messo a giocare, giocando stesso prende il pitbull, si gira malamente e comincia a pigliare a lungo, cazzo, per poco non lo ammazza. Così c'è questo pitbull che si chiama come il tuo cane, già. Ed è amico da piccolino di Curtu. Cazzo, ti vedi in Romagna, va. Me lo ricordo che me lo dicevi, che Cosetta lo portava lì alla fontana del Rosello, lì. Ehi, questa volta ce l'aveva lo stesso mia moglie in mano il cane. L'ha detto, non ti fidà, mica si è fidata, Rugani è andato a giugare e chi tu si era pintato. Ha detto, non ti fidare più di nessun cane, l'ha detto, perché sono cani. Loro dimostrano sempre la loro potenza, no? I maschi fanno così. Vogliono far vedere che sono più furti, capito? Infatti io a mia moglie gli ho detto non ti fidare più di nessun cane, perché non si sa mai che si gira e te lo rovina il cane. A me mi si dispiace, ma cosa ha gusto a me? Come ti sei un figliolo? Beh certo, è come per tutti, anche a me, per me è stato così. Ma io evito di avvicinarlo, a meno che siano femmine o cuccioli, allora li avvicino, se no se sono maschi non li avvicino per niente, perché si gira anche Tyson, capito? Infatti quando sono maschi tutti e due si afferrano, non è nulla di qua. Bisogna solo, con le femmine se non succede niente, è anche molto più grande di lui e non gli fa nulla, mi manco le abbaia. Cazzo, invece con i maschi si attaccano e non è nulla di fare. O cuccioli oppure con le femmine bisogna farle avvicinare, basta. Ma con i maschi non funzionano. Con le femmine tutte si rioga prima, no? Da poi le annusa e cerca di saltarsene, l'occhio. Infatti. Il suo gusto, il babarino, è sfortunato questo cane, boh. Vabbè, ma adesso che lo sai, non ti fida più avvicinarle, perché sembrano bravi certi cani e poi ti si avventano di colpo, capito? A volte sono vigliacchi certi cani, capito? Specialmente se sono grandi. E io a te se lo faccio uscire con la museruola sempre, perché lui ha il vizio che se non conosce le persone va a toccare lo libricca il naso. E quindi non mi fido più. Infatti. No, io già non mi fido. È mia moglie che si fida, cazzo. Io gli ho detto non ti avvicinare più agli altri cani grandi, perché si rabbentano. Eppure Kurt non è masedolo. Vabbè, ma è piccolino e non va la botta di chi si cani manni, no? Capito? No, ma se tu no, a chi poi più manni so e più la baggia è tu. Sarà come la volta che sono salito lì in Castella Meridiana, a portare a Tyson. Questa qua prende e molla il cane, lo slega e si mette al telefono, parlando al telefono. Una signora grande, non una bambina, una signora grande. Lo slega e io tra me ho detto, cazzo, ha visto che sono con il cane a guinzaglio e l'ha slegato lo stesso, vabbè. Questo cane piglia e parte verso Tyson e non balla. E io l'ho tolta la museruola, è calmo. Come è andata a morsicarlo, il gentile si è girato e mi dico, cai, cai, cai, cai, cai. E la signora, mi ha morsicato il cane, si vergogni, non ti ascolti, signora, il cane, lì, sono dovuto andare a guinzaglio, poi è lui che si è avventato addosso al mio cane, e lui si è solo difeso, basta, tutto lì. Cavolo, cioè, già una volta l'hanno morsicato, lo stesso mi è costato 120 euro dal veterinario. Cazzo, cioè, non devo, a parte quello, poi a me mi dispiace, anche io aiuto tutto Zangulò. Infatti, chi la ruina è Gianni Lugani, non è altro, no. È per quello, io a mia moglie stasera gliel'ho detto, non ti fidà più, finisci un cane, manno. Perché cazzo, si ravventa, ne può essere bravo, però si di colpo si può avvincere e ti riguarda Lugani. Mi ha tagliato l'orecchio, mi ha morsicato, l'ha preso dalla gola all'orecchio quel pizzo. E lui ci aveva la museruola, poverino, si è venuto manco di fegato. Cazzo, gli ha tagliato l'orecchio, l'ho venuto mettere 5 punti. Il segreto, ma io non gliele avrei neanche messo museruola a Tyson, perché gliela devi mettere, basta il guinzaglio. Perché si tira in nata dal bassone, le vanno a carezzare, gli dicono, no, non toccate, no, a me non mi farete, ma la toccare gli blicca in alto, capito, se non li conosco. Si dice feo. Ma cazzo, se tu gli dici non toccarlo, ma cosa ci devi, una vicina, non l'ha già compreso. La gente si stette, questa signora un giorno era col marito. Ai che bello, è andata a toccare, te lo signora non lo tocchi perché se non conosce la gente di Firenze e musica. Scusa il telefono. Luca, ci sei? Chi è? Chi è? Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Tony, buonasera. Vabbè, tutto bene. Tutto bene, è da mettere a posto. Intendevo con l'influenza mi. Ehi, già sta guarendo piano piano. Oggi sono sceso a Platamona, me ne sono sceso, perché non ce la faccio più a rimanere a casa, mamma mia. Non mi è passata ancora, però già sto meglio, là. Ecco, l'influenza, diciamo, l'area del vino fa bene. Gli ho detto chi a Franco di farlo. E beh, Torino Cavaggiacchi. E beh, ciao, bro, beh. Allora, vieni qua, direzione mare, a fare il bagno. Andare. Vediamo fino dove ci ascoltate. Noi adesso siamo quasi, stiamo per uscire da Sassari, ma non penso che ci sentiremo per molto tempo. Oh. Vabbè, noi siamo qua, poi se ci sentiamo, fin dove ci sentiamo poi. Io non prendo la camionale, quindi poi non lo so, dopo la camionale se continuate a sentirmi, vedremo, dai. Cappa, avanti Natalia. Cava cava. Aspetta che arrivo pure io lì, a mare di fuori. Fatti il magneto pure tu, te ne porto le papperelle, Natalia. Io guarda, me ne sarei voluto andare a Seppie o a Calamari, però sto temendo il freddo perché sono influenzato ancora. E stamattina è andato Luca, è andato, Luca Flipper. Ma Natalì, grigio freddo, tu il calamare e le Seppie le prendi già impacchettate e congelatemi. Ma non è per... tanto io vado per rilassarmi lì, no? Non è per pigliare le Seppie o i calamari. Se io voglio i calamari e non posso andare a pescare, me li compro, certamente. È giusto che sì. Dai, era battuta quella lì, comunque sì. Il mare ti rilassa, dove è pescare. Beh, passate il tempo a rilassarti, più che altro. Poi si abbocca meglio così. Avanti, Savi. Caia, non è che posso rispondervi sempre, dai. Ok, sei diretto verso fuori, ho capito. Mi serve per il trabacco, no? Oh, per andare a prendere un po' di aria fresca, di aria pulita, a fare due lanci. Ah, quindi a freddo che... che basta tapparsi. Guarda, ti posso dire io adesso che mi sono dovuto levare il giubbotto e pure aria a casa, in macchina non ce n'è, perché c'ho un metro di roba addosso, cioè pantaloni militari, la caccia, imbottiti dentro, c'ho coperto tappato. In direzione Papa Tango? No, Papa Tango, ecco già a poco d'ora, ma no, fuori, lontano. Argentiera. O Argentiera o Tintino, no, vediamo un po', adesso come stiamo andando, dove gira la macchina, come anda lì. Io sono avanti da lì. Lì a Coscia di Donna, mio fratello, cazzo, un attimo sono andato con Edu a sai farne rubarami, togliamo venire a poco di roba. Coscia di Donna già c'è ne roba, che voglia, però devi uscire fuori. A Mari di Vura, mio fratello adesso lo fa per professione, ma quando sono andato io lo faceva così di frodo, da. Anda bene. Niente, sono rientrato poco fa, ho fatto la commissione e sono venuto rientrato, sono venuto la di casa. Mi sono fatto un'altra bella cecciata a Natalia, ma buon avviro. Ah, una scena che domino, ega. Ma lo sai che te è buona? Mi ha tolto e mi ha smagnato con la carne. Me, dopo 3 ore circa mi sono misurato la glicemia a 135, perfetto. Beh, a me pure piace. Già lo so che è buona, Iatun. Se mangiavo un piatto di pasta mi sarebbe salita la glicemia. Invece quel cicino. I legumi sono. Eia. E adesso più o meno dove ti trovi, Savi? Savi ti ha detto che prendeva la camionale, capito? E se ne andavano a Trentino lì. Ma la sono andata a Piccana? Penso di sì. Se non è col fratello, magari. Niente.